24 mattino. Le periferie devono per forza essere degradate. Certo, certo. Vero Federico? Ma ci sta, sì, certo. Federico. Sì. Sì, certo, c'è scritto anche su Wikipedia. Cioè? Le periferie devono essere degradate. Ecco, ma perché? Perché sennò la gente povera e brutta verrebbe ad abitare in centro. Ah, ho capito, però... Noi dovremmo... Sì. Perché non facciamo diventare più brutto il centro, ma così no, le periferie non stonano. Ma... vabbè, siamo a livelli altissimi col finto Crozza... no, il finto De Luca di Crozza, che ormai è pop art. Perché non facciamo diventare brutto anche il centro in Italia? Sì, in questa Italia sveglia, sotto la neve, il gelo e i cortocircuiti. Allora, tante cose voglio raccontare: le odissee, le strade bloccate, i terremoti. Però sapete che c'è sempre una copertina in questa rassegna stampa prima dei titoli. E oggi la storia che mi colpisce, sapete che ieri chi ha sentito la puntata l'avevo già citato, il giudice che selezionava le donne per i concorsi e metteva un dress code addirittura, cioè la minigonna. Le donne dovevano andare in minigonna ai corsi per future magistrati. Fra queste, il giudice non nasconde le sue relazioni, e c'è anche una foto, lui col giubbotto di pelle, le corsiste con le cosce al vento, e un bellissimo corpo a corpo giornalistico di Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera, che chiede conto a questo consigliere di tutte queste scelte. Allora, è un'intervista da leggere. E lei a scrivere che una borsista scartata venne ripescata dopo aver indossato a lezione la minigonna. E lui dice: è una semplificazione, il mio è un metodo scientifico di intendere la funzione della ragione nelle cose umane. Voi che capite che è una supercazzola, esatto. Ma ci sono le foto. Quelli sono eventi, il dress code della minigonna non mi è stato contestato, mentre leggo addirittura che sono stato condannato per quello. Io non posso, non voglio parlare di quel procedimento di fronte al Consiglio di Stato, ma se anche volessi, come nel processo di Kafka, io tuttora le accuse non le conosco. Ma vi rendete conto che cosa risponde? E lui citava le sue, diciamo così, corsiste negli articoli della rivista e compilava, e Virginia Piccolillo le chiede: ma lei non è stato censurato anche per aver raccontato i rapporti sessuali che una borsista aveva con lei e con altri uomini? E lui risponde, non dice no, non è vero, dice: bisognerebbe sapere se c'era il consenso. E la Piccolillo chiede: e c'era? Certo, questa ragazza ha vinto il concorso durante la pubblicazione della rivista. Non vi fate domande? Beh, questa intervista è da mettere i brividi. Veramente qui c'è da entrare dentro l'abisso di certi uomini, di certe teste, chiedersi che cosa gli passi, l'impunità, il senso del potere. Cioè, non nega, dice no, ma c'era il consenso. Va bene, iniziamo con le prime pagine allora. Il giornale Di Maio abolisce lo shopping. Testata che dà l'idea di come sia l'occhiello, di come il giornale abbia un'idea su questa posizione, deliri elettorali. Il candidato premier Grillino vuole negozi chiusi durante le festività. Però c'è una foto di prima, scandalo a Pisa, quel poster di Lotta Continua negli uffici della questura. E allora abbiamo visto che c'è la foto portata dalla Russa nella stanza della Binotti dei legionari durante la guerra di Etiopia. Abbiamo visto che c'è tanta simbologia che gira negli uffici pubblici, la bandiera del Secondo Reich, c'è anche un poster di Lotta Continua. Ale, però non lo so. Repubblica, la manovra salva i vitalizi, e la foto di prima, un Putin scultoreo dalla Siria all'Egitto, il trionfo dello zar. New York, attentatore si fa esplodere, volevo vendicare Gaza. Avvenire, mai abbandonare, Bassetti sul fine vita, dare da bere non è terapia, importante il rispetto dell'obiezione di coscienza. Quindi un'apertura ancora diversa sui temi etici di Avvenire, e ci piace citarlo perché è sempre importante. Corriere della Sera, apertura tradizionale, la foto di un poliziotto nella grande mela, bomba New York, torna la paura. E poi il fondo di Giantonio Stella, proprio sul caso Bellomo, i doveri in più dei giudici. Il caffè di Gramellini, lo leggerò se c'è il tempo, è su Grasso, si sta come le foglioline. Il Fatto Quotidiano scuola dei giudici, foto hard, ricatti sessuali e pedinamenti. E ancora siamo sul caso Bellomo, vedete, su questa follia. E poi Vicenza, città col buco, processa la sua banca. Il fondo di Travaglio è sul caso Grasso, in difesa di Grasso dopo queste polemiche. Il Foglio di Claudio Cerasa, elogio della sinistra traditrice, Portogallo, Francia, Grecia, Italia, storie per capire dove passa l'alternativa allo spettro del corbinismo, da Corbin. E in fondo di Cerasa, ma poi c'è un pezzo di Allegranti, di, diciamo così, di apertura, Berlusconi in marcia, come può nascere un nuovo predellino. Occhiello, a destra solo posti in piedi. Bersagli di Natale, la copertina del giorno. E poi un approfondimento, Gentiloni, premier garbato, ma dall'economia all'estero i risultati non si vedono. Il Manifesto, l'investimento a Napoli, sfida sfilata di governo per il convegno Avere 20 anni a sud. Il premier Gentiloni esalta le condizioni vantaggiose per chi vuole investire e creare lavoro. Il Mattino, Gentiloni, la scossa per il sud, vedete, è ora di investire, condizioni mai così favorevoli. Il Messaggero, una bomba per vendicare Gaza. Il Sole 24 Ore, qui dovremo leggere tante notizie. Bitcoin record con il future, al via i derivati a Chicago, la criptovaluta torna sopra $16,000. C'è un fondo di Donato Masciandaro, un debutto da gestire con prudenza, una vera lezione su che cos'è il Bitcoin, sui suoi rischi, sulle sue virtù. Il Tempo, la Rai profana la tomba del Duce, un servizio di Agorà fa infuriare Mussolini. E poi la Gazzetta dello Sport, prendiamoci l'Europa. E la Stampa, paura a New York per il kamikaze. E una storia, Sofia, 8 anni, racconta l'attesa per il ritorno dalla missione spaziale di Paolo Nespoli. Finalmente mio papà scende dalle stelle. Qualcosa scende dalle stelle. Ci vediamo fra poco per il resto della rassegna stampa. Curiamolo, leviamogli il metadone. Mattino. Rieccoci, le 7:34 minuti, Luca Telese, 24 Mattino, siamo qui a raccontarvi cosa succede in Italia e nel mondo, e stiamo entrando dentro la foresta delle pagine, come dice il mio amico e fratello Scargianino. Allora, solo un lampo, perché avete sentito tutto. È interessante l'analisi di Alessandro Orsini sul kamikaze di New York. Il Messaggero, pagina 1, l'agonia dell'ISIS con kamikaze poco addestrati. L'attentato fallito in New York porta una notizia cattiva e una buona. La notizia cattiva è che il terrorismo è una tecnica di combattimento che riesce a penetrare le difese di qualunque servizio di intelligence. È facile dimostrarlo. I servizi segreti migliori del mondo, ovvero russi, israeliani, americani e inglesi, hanno subito numerosi attentati. Ciò accade perché il terrorismo è violenza vigliacca, ovvero un tipo di violenza esercitata contro le persone in fuga. Ma la buona notizia è che i terroristi privi di addestramento tendono a realizzare attentati poco letali o a fallire. Così è accaduto ieri a New York. Non c'è da aggiungere altro a questo, non c'è da tirare un grande sospiro di sollievo. Un matto nel mondo che vuole entrare nel vocabolario del terrore c'è, ma senza addestramento è meno pericoloso. Allora, avevo ancora due pagine da leggere, due prime pagine, quella che mi arrivano ora, La Verità. Così Banca Italia premeva su Zonin affinché salvasse Banca Etruria, parla Adriano Cauduro, il vice direttore generale della banca, ma è sfiorato alle indagini. La Boschi incontrò il direttore generale Sorato. Mentre invece Libero, anche questo mi mancava, è arrivato adesso. Epatite C emergenza, il governo disattende l'impegno di curarla. E poi c'è la campagna sulle nuove malattie che da tempo il quotidiano di Pietro Senaldi conduce. Ma poi c'è la foto di prima, la mafiosa, tra virgolette, Rosy Abate, fidanzata d'Italia, Giulia Michelini, l'attrice, interpreta Rosy Abate nella fiction in onda su Canale 5, che batte tutte le settimane Fazio. Allora, abbiamo chiuso la panoramica e voglio andare a raccontare una spigolatura importante sul Corriere della Sera, pagina 8, le conseguenze che si stanno muovendo nel Medio Oriente dopo la dichiarazione di Trump. Ebbene, parla Hossam Youssef, intervistato da Lorenzo Cremonesi. Voi sapete che è il leader di Hamas in Cisgiordania, e si arriva al paradosso che lui dice: siamo pronti ad accettare armi dall'Iran. Ora, perché vi deve stupire questa cosa? Perché Hamas ha una storia totalmente diversa da quella dell'Iran. Stiamo parlando di sciiti e sunniti, cioè di realtà inconciliabili. E allora, di fronte alla domanda di Cremonesi: ma l'Iran aiuta gruppi sciiti come Hezbollah libanese, che fa le guerre ai sunniti in Siria e Iraq? Hamas è sunnita, come potete cooperare con l'Iran? E lui risponde: non abbiamo alternative. Se l'Iran ci manda le armi, saremo ben contenti di riceverle, e ben vengano gli attacchi di Hezbollah dal Libano contro Israele. Questo dimostra che sta accadendo qualcosa di molto, molto pericoloso. Allora, dicevo, nella politica è accaduta una cosa importante, forse anche sottovalutata dai giornali, per il peso che potrebbe avere in queste elezioni questa mela che si spacca. Divorzio. In Alleanza Popolare, Lorenzin, Beatrice Lorenzin, ministro, va con i Dem. Lupi va, non ci va, quindi la Lorenzin va a sinistra. Il coordinatore lavora a una lista alleata al centrodestra che riutilizzi il vecchio nome Nuovo Centrodestra. Tutto è nuovo e tutto è vecchio in Italia, signori, tutto è nuovo, tutto è vecchio. Andate a sinistra, andiamo a sinistra con il retroscena di Maria Teresa Meli. Prodi e Veltroni in campo se il PD deraglia. È sempre sul Corriere a pagina 11 e ci dà l'idea di quanto sia aperta questa partita. Ma voglio leggervi anche al Corriere, perché oggi è ricco di cose divertenti. Sgarbi: vinceremo come in Sicilia, e immagina la sua lista. Voglio con me, cioè candidati, Contrada, Morgan e Simona Ventura. Non so perché Simona Ventura, però è interessante, e lo registro. Allora, vi dicevo che cosa accade invece a sinistra. C'è la polemica per queste famose foglioline, ne abbiamo parlato nella prima mezz'ora. Il caffè di Gramellini è molto divertente. Dice: un minuto dopo aver presentato il simbolo del partito Liberi Uguali con Grasso, il medesimo Grasso era accusato sui social di avere A. abusato del suo nome, B. copiato il logo di Emergency, C. disegnato la E in forma di fogliolina per denigrare l'apporto delle donne, da Costo e di Adamo a foglioline di Grasso, ha scritto una compagna indignata. E un'altra: non siamo foglioline ma radici. A parte che il povero Grasso, scrive Gramellini, non ha mai detto che le donne sono foglioline, ma se per fare le gambe della E avessero usato le radici di una quercia, di un ulivo, di un qualsiasi altro arbusto, forse avrebbe tacitato le oltranziste del web. Di sicuro però altri forze trenanti della società, i transgender del Minnesota, i minatori del Sulcis, le sartine della Lunigiana, si sarebbero sentite discriminate. Divertente questo corsivo, tutto da leggere. E noi andiamo però su quella vicenda, perché è molto interessante il continuo cortocircuito con la memoria del ventennio. Il Tempo è l'apertura: la Mussolini imbufalita. Perché? Perché la RAI profana la tomba del Duce. Incredibile servizio di Agorà con i partigiani dell'Ampi dentro la cripta di Benito Mussolini. Alessandra si arrabbia e dice al quotidiano di Gianmarco Chiocci: li denuncio. Il sindaco di Predappio dice, ma è democratico, chiedo scusa alla famiglia. E è interessante la provocazione della Mussolini. E cosa accadrebbe se io andassi nella tomba di Matteotti? Il pezzo che racconta cosa è accaduto è di Pietro De Leo ed è pagina 3 del Tempo. Il fondo di Alessandro Meluzzi, dimenticata ogni forma di pietas. Se vi interessa, se volete leggerlo, se vi incuriosisce, voglio andare sul Giornale solo al volo, ma per leggervi questa vicenda della foto del poster con il simbolo di lotta continua. La mia impressione, essendo incorniciato, che non fosse una cosa paragonabile a una manifestazione di simpatia. Però il Giornale è andato a raccontarlo. Stiamo parlando di pagina 17, il pezzo di Rachele Impero. Ci devo arrivare, ovviamente. E Sono i simboli del passato e il ritorno. Ovviamente è molto delicata la vicenda, perché sapete che a Pisa morì uno studente di lotta continua, stiamo parlando degli anni 60. Il poster alla scrivania del sottocommissario, imbarazzo negli uffici, la spiegazione era un trofeo di guerra. E dice Rachele Impero, uno simbolo, un trofeo di guerra o il simbolo dello stesso valore, lo scudetto del Pisa o del crocifisso appeso alla parete? C'è un manifesto di lotta continua in una stanza al secondo piano della questura di Pisa, è incorniciato dietro alla scrivania del sottocommissario, che farfuglia, è un trofeo di guerra. Una risposta forse evasiva, forse sincera, chi può dirlo? Il problema è l'opportunità. Ma l'opportunità diventa il problema di tutto, e quindi la vicenda che voglio raccontarvi adesso riguarda invece ciò che stiamo vivendo. Ci sono vari pezzi, sia sul Corriere della Sera, sia sulla Stampa, sull'odissea di chi è rimasto nella morsa del traffico. L'Adige ci racconta anche di Bolzano, l'efficiente Bolzano con gli autobus senza catene. E io ho visto questo raccontone che ci dà l'idea dell'Italia bloccata, 8 ore per attraversare il Brennero, chilometri e chilometri di pullman, di autobus, di autotreni, tutti in fila, tutti fermi per una misura di emergenza, si circolava a una sola corsia. Allora dobbiamo interrogarci su cosa succede se le arterie dell'Italia sono così fragili, e il modo migliore è il bel pezzo "Auto in panne e liti sotto la neve, la mia odissea di 12 ore bloccato sull'auto Brennero", e il reportage bloccata ovviamente di Sara Ricotta Vodza da Milano, da Bressanone a Milano, di notte sotto la tempesta perfetta. Fortuna che l'auto era attrezzata, i figli a casa, partiti il giorno prima. Il navigatore a dire il vero aveva previsto 10 ore, ma l'avevamo giudicato una stima da Cassandra digitale o esageratamente prudenziale. Invece lui, il navigatore, lo sapeva. A Bressanone aveva appena cominciato a nevicare, fiocchi piccoli ghiacciati, per strada si viaggiava bene, incolonnati ma con un certo ritmo. E lì esce la prima fase che non si dovrebbe dire: beh, pensavo peggio. Ecco, successo così, è molto godibile, è molto ben scritto ed è la fotografia di questo paese quando tutto si blocca. Allora, Iena, il PD ha improvvisamente riscoperto l'antifascismo, cosa non si farebbe per un pugno di voti. Ma questa è solo cattiveria di Iena, lo sappiamo, però si distingue per questo. Allora, di nuovo il racconto di quello che accade in diretta, le informazioni vitali per chiunque è in mezzo al traffico, alle arterie, alle strade, strade in diretta. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Mattino. Spiegherei che il governatore, per esempio, della Puglia ritirasse il ricorso nella logica di rapporto di fiducia governo-regione. Si chiudono in una stanza, aprono un confronto serrato, evitano il conflitto, e la prima cosa che devi fare, non puoi fare un ricorso prima di trattare. Occorre essere esemplari, occorre evitare la cultura del sospetto. Chi sbaglia va in galera, ma dopo, se chiude l'Ilva, chi paga? Caro Gordon, questa è la bella domanda che il presidente di Confindustria fa, ma che tutti dovremmo raccogliere. Cioè, il ricorso che ancora è in piedi e minaccia la sorte di tutti i lavoratori, i dipendenti, i dirigenti dell'Ilva, è una domanda che riguarda non quattro gatti, ma il più importante polo siderurgico italiano e uno dei più importanti d'Europa. Allora, subito, per chi vuole sapere che succede, pagina 18, Il Sole, il convegno organizzato dal Mattino sul futuro dell'Ilva di Taranto. Veramente c'è convergenza di tutti, da Landini alla Confindustria, e c'è questo ricorso che è tenuto in piedi dal sindaco Emiliano. Fra l'altro, sindaco, ti avevamo invitato, sei sempre uno che non si tira indietro, non sappiamo perché non sei venuto e non spieghi bene questa tua posizione. Ta, un messaggino. Allora, 40 miliardi per le banche, questo è un altro pezzo del Sole 24 Ore che dà l'idea di che cosa sta accadendo in Unione europea. Servono 40 miliardi per ricapitalizzarle. Gli aumenti stimati per Basilea 4 andranno tuttavia spalmati in 10 anni. Le sofferenze sono in calo. Questo la stima era del il pezzo di Laura Serafini, e il pezzo sulle sofferenze in calo, una buona notizia, di Davide Colombo. Però e ancora si combatte su questi crediti deteriorati. Rinvio possibile, spiega la commissaria, e il pezzo di Maximilian Cellino, ma solo per un paio di mesi. Guardate che si naviga a vista, si naviga a vista. Il Corriere della Sera ci racconta una storia, una piccola storia di orrore, cioè metalli tossici sversati dentro, così, all'aria aperta, e ovviamente questa vicenda ci rimanda al problema della sicurezza ambientale. Che cosa dire? Non c'è niente da dire, bisogna, come dire, vigilare, e in questo caso lo fa la magistratura ad Adria, metalli tossici sversati come rifiuti nell'ambiente. Invece, sempre al Corriere della Sera, l'economia, pagina 37, prendo la vicenda della Melegatti, in cui c'è cassa integrazione ma l'azienda sembra che stia andando bene. Di nuovo ferma il pandoro di Natale, ferma la crisi ma non la allontana del tutto, e si spera nella campagna per le colombe pasquali. E Andrea Goldstein sul Sole, a pagina 18, gli approfondimenti, scusate, a pagina 18, ci fa un bellissimo focus sul tema dello Ius Soli, a cui ora l'Italia rinuncia dal punto di vista socio-economico. Cioè spiega che spesso i nuovi cittadini lavorano di più, lo dicono alcuni studi, e Ius Soli, una lettura economica, un bellissimo approfondimento per chi vuole leggere questo articolo. Attenzione, Messaggero, Bancomat più facili, cioè si abbassano le commissioni, prima pagina, e quindi adesso sarà, non ci sarà più l'alibi di dire oddio, non lo posso mettere perché mi massacrano. Per negozi artigiani, ma multe per chi rifiuta. Non ci vedo niente di male. Andiamo alla mitragliata. Riparla Fedez, il Corriere, pagina 47. Fedez, idolo, simbolo, beniamino di tanti e di tante, giudice del talent di Sky. Un 2018 irripetibile, dice, divento papà, canto a San Siro, mi sposo con Chiara Ferragni, c'è la foto di lui che bacia la pancia, è pieno di uomini che baciano la pancia delle mamme gravide e lo mettono sui social, meno male, un bel fatto di costume. Ma interessante, mi diverte questa notizia. E adesso farò meno attenzione alla politica sociale, sono più tranquillo, un artista deve dire ciò che pensa senza preoccuparsi delle conseguenze. Ne ha avute? E Fedez risponde: beh, parecchie, due interrogazioni parlamentari, un paio di querele, articoli di ringraziatori. Gasparri mi ha chiesto mezzo milione di euro, ma rifarei tutto, dalle dichiarazioni su Expo alle querelle con Salvini. Ale, e vai Fedez, dai. Vi voglio raccontare una cosa, una cosa di quelle di costume, che però bisogna conoscere e bisogna anche temere. La Cassazione, ogni tanto quando si pronuncia la Cassazione bisogna, come dire, preoccuparsi. Adesso ha previsto come un problema molto grave chi parcheggia, attenzione, fermatevi, ricordatevi che cosa avete fatto questa mattina, chi parcheggia l'auto troppo vicina a quello che gli sta a fianco. Ebbene, voi direte, qualche volta si deve fare un po' di acrobazie, diciamo la verità, qualche volta devi entrare dalla porta posteriore. Una volta mi è successo di entrare anche dal portabagagli. Ebbene, parcheggiare l'auto troppo vicina a un'altra gente, in sosta, è un reato. In base a questo principio, la Cassazione ha confermato una condanna in appello per violenza privata. Aveva parcheggiato il mezzo e quello non poteva entrare. Violenza privata. Ragazzi, si finisce male. Sul Corriere, pagina 37, C'è una notizia meravigliosa di quelle sfide di Davide contro Golia che stanno cambiando, rendendo divertente il campionato. Qui lo sport è la metafora della vita dove tutto può accadere. Ebbene, la scommessa del Pordenone, che in Coppa Italia, negli ottavi con l'Inter, la partita si gioca stasera, fa un fioretto. Se vinciamo con l'Inter da San Siro, torniamo a Pordenone a piedi. No, ma guardate, dovrebbe accadere, perché vedere questo corteo sarebbe seguito da tutta Italia, sarebbe, diventerebbe un caso, come dire, di scuola. Poi ci sono i politici che non fanno i pellegrinaggi, se lo facessero quelli del Pordenone diventerebbe un simbolo anche educativo, dico io, anche educativo. Ebbene, l'ultima cosa riguarda la finanziaria, salta lo Ius Soli, come abbiamo detto, perché sono stati ridotti gli emendamenti, sto leggendo da tutti i giornali, però in questo caso da Repubblica, pagina 7, saltano le maxi multe per il cellulare alla guida. Ora lo so, e su questo siamo un po' ipocriti, no, le volevamo le maxi multe, ma quante volte ti capita che stai buttando l'occhio, stai consultando un navigatore? Quindi queste misure draconiane che avrebbero distrutto le patenti e i punteggi di tutti noi, oltre che le tasche, saltano. Non so se dire che è una tragedia, perché dipende da come si fanno le cose. Con un peccatuccio si rischia di rimanere fregati per sempre. Allora, la Basilicata è una regione con un ricco patrimonio archeologico. Nessuno lo sa e molto è ancora da scavare. Ma pensate che la sovrintendenza unica di Potenza può contare su un solo archeologo, uno solo. E allora la mia domanda è: ma è possibile che siamo pieni di statali, parastatali, affini che non fanno una cippa, e poi ci sono posti come un'intera regione in cui ci sono i beni culturali ma un solo archeologo? Allora ci fermiamo per i cani e per i gatti, le vostre telefonate, ovviamente discuteremo del caso Di Maio e la polemica sui festivi. Ci sentiamo fra poco.